l'amor da mettere in fila, così alla meglio è una melodia, per quanto semplice sia, e le faccio andare in alto da te, è tutto quello che serve a una canzone, a una preghiera, accoglila se puoi.